Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera mettiamo insieme, presentando dei libri, due argomenti che in apparenza sono molto distanti ma che hanno molti punti in comune. Il primo argomento è la Cina e parleremo di una rivista, la rivista quadrimestrale della Fondazione Italia-Cina, Mondo Cinese. Il secondo argomento è la Ferrari. La Ferrari, un mito italiano che peraltro è uno dei beni maggiormente desiderati dai cinesi. Ma cominciamo parlando della Cina, lo facciamo con Thomas Rosenthal. Buonasera, dottor Rosenthal. Buonasera. Thomas Rosenthal è responsabile del Centro Studi per l'Impresa della Fondazione Italia-Cina, di cui è membro del Comitato Esecutivo, e quindi può spiegarci questa rivista, una rivista quadrimestrale che ha una dignità di un libro. L'ultimo numero è uscito in dicembre. La Cina si riprende la scena, è dedicato soprattutto a come la Cina è presente sul fronte della realtà internazionale. La Cina resterà protagonista anche di questo 2011, dottor Rosenthal? Assolutamente sì, le previsioni tra l'altro di crescita sono molto positive anche per l'anno 2011. Noi presenteremo anche un rapporto annuale di carattere prospettico su come sarà la Cina effettivamente nel 2011. Ci aspettiamo una Cina che cresce dal punto di vista economico e crescerà anche nel suo protagonismo a livello internazionale. Noi nel numero 143 di Mondo Cinese, appunto uscito a dicembre del 2010, noi ricordiamo che la Cina va all'estero sia dal punto di vista economico con le imprese cinesi e i fondi sovrani, ma va anche all'estero tramite idee e culture. Quindi abbiamo per esempio parlato del soft power dell'arte, abbiamo parlato del ruolo degli istituti Confucio, ormai ce ne sono già 6 in Italia, nelle principali città, con investimenti rilevanti a parte del governo cinese per promuovere lingua e cultura. Ecco, questa rivista vuole un po' spaziare su tutta la realtà cinese, sull'economia, la politica interna, le relazioni internazionali, il diritto, la storia e appunto la cultura e la società, con una caratteristica appunto di approfondimento, di un'apertura, considerando la Cina come una grande opportunità per il sistema occidentale. Sicuramente sì, è una grande opportunità e noi come editori siamo proprio come editori, come Fondazione Italia-Cina, ma la rivista storicamente non ha mai preso una posizione filo-cinese, non ha mai guardato la Cina come un'opportunità, come una minaccia, guarda la Cina con estremo realismo e libertà accademica, e questo per noi è fondamentale. Nonostante la Fondazione sia un'organizzazione evidentemente filo-cinese, certo, la rivista ha una sua autonomia. Ecco, adesso è edita da Francesco Brioschi Editore, ha 38 anni di storia, ma viene rilanciata appunto in una nuova formula, con una nuova veste grafica anche, e con una vastità anche di collaboratori molto ampia. Assolutamente sì, quello che ha fatto la Fondazione insieme a Brioschi Editore è stato di aprire la rivista a contributi dall'estero, a istituzioni universitarie estere. Io citerei per esempio la School of Oriental and African Studies di Londra, il cui capo degli alumni è Aung San Suu Kyi, il premio Nobel birmano, e poi per esempio l'Australian National University, ma anche la China Europe International Business School, dove tra l'altro insegna il professor Prodi. Ho capito, e il prossimo numero, il 144, che uscirà in primavera, sarà dedicato al 40° anniversario delle relazioni diplomatiche, quindi il rapporto tra Italia e Cina è un rapporto ormai consolidato. Sì, il titolo probabilmente sarà la svolta, perché riteniamo in questo momento che sia un momento cruciale. C'è stata la visita di Wen Jiabao in Italia a inaugurare l'anno della cultura cinese in Italia il 7 ottobre del 2010, l'anno della Cina in Italia si concluderà a fine 2011 con una serie di iniziative. Il numero di Mondo Cinese, numero 144, si occuperà proprio di fare il punto sulle relazioni di carattere culturale, scientifico, economico tra Italia e Cina, con contributi di personalità eccezionali, per esempio del nuovo ambasciatore italiano in Cina. Allora, aspettando questo numero 144, comunque si può acquistare il numero 143, sono 170 pagine, edito da Francesco Brioschi Editore per 10 euro. Ricordo la rivista Mondo Cinese, rivista di studi sulla Cina contemporanea. Ne abbiamo parlato con Thomas Rosenthal, membro del Comitato Esecutivo della Fondazione Italia-Cina, che è l'editrice di questa rivista. Grazie dottor Rosenthal, e adesso parliamo di Ferrari con Roberto Provana, consulente aziendale, laureato in psicologia psicologia e specializzato in psicologia clinica, consulente aziendale e ha seguito sotto il profilo soprattutto delle risorse umane molte grandi imprese. Buonasera, dottor Provana. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie. Come una Ferrari impara i segreti di un mito per vincere nel lavoro e nella vita, edito da Anteprima. Quindi un libro dedicato alla Ferrari, ma che prende un po' spunto dalla Ferrari per fare un discorso. Che discorso, Provana? L'ambizione è quella di ispirarsi appunto a questo modello di eccellenza internazionale per ricavare un modello comportamentale specifico, cioè delle istruzioni ad uso dei manager, dei professionisti, di tutti coloro che oggi si devono confrontare con un mercato sempre più difficile ma anche estremamente stimolante. Quindi una sorta di guida appunto comportamentale. Infatti verso la fine del libro ci sono addirittura delle immagini che rappresentano una sorta di segnaletica, no? Sì, infatti, sembra quasi un libro un po' a fumetti alla fine. Sì, perché bisogna anche comunicare oggi in modo diverso e quindi i messaggi devono essere trasferiti anche sul piano dell'immagine, naturalmente. Ecco, la Ferrari è stata per un certo periodo, alcuni anni fa, anche in profonda crisi, poi si è ripresa sotto i due aspetti, l'aspetto sportivo e l'aspetto anche industriale, l'aspetto della presenza sul commerciale di mercato. La Ferrari, abbiamo detto prima, è il bene più desiderato dai cinesi, quindi ha un'immagine mondiale. Come mai? Qual è stato il fattore di successo che ha guidato questa svolta? Beh, naturalmente i fattori di successo sono molteplici. A me piace sottolineare questi aspetti. Innanzitutto la grande capacità progettuale a tutti i livelli, no? Da parte dei manager ma anche dei meccanici e di tutti gli operatori. E poi il fatto che l'innovazione, se ne parla tanto, ma non è, diciamo, semplicemente una formula, si fa veramente innovazione, che non è solo, diciamo, tecnologica, è anche mentale, è una forma mentis. L'innovazione tecnologica è il risultato che si fa un cambiamento mentale, direi addirittura psicofisico, proprio per reggere la sfida, per reggere, diciamo, l'energia che poi bisogna mettere in campo on the road, sulla strada. Quindi ci sono anche dei modelli comportamentali che aiutano questa nuova disciplina psicofisica. Quindi direi proprio capacità progettuale, innovazione reale, anche a livello mentale, comportamentale, psicofisica, e poi la grande capacità di imparare dal successo e dall'insuccesso. Abbiamo visto anche recentemente, diciamo, la Ferrari, diciamo, si dice ha perso, sì, ma si è grandi anche nel modo di perdere, perché si può imparare tantissimo delle proprie sconfitte. Ecco, quello che emerge poi dal libro, mi sembra interessante sottolinearlo, è il fatto che lei appunto parla molto di innovazione, di cambiamento, di necessità di andare verso nuovi traguardi, però c'è un richiamo quasi costante a Drake, a Enzo Ferrari, al fondatore, cioè a colui che ha creato questo mito e che già allora, già creandolo, ha messo un po' le radici nel DNA dell'azienda, questa voglia di cambiamento e di andare avanti. Diciamo che l'attenzione al carattere dei numeri uno, no? Quelli che io chiamo numeri uno, insomma, c'è un aspetto caratteriale e anche direi spirituale che non si può ricondurre a una semplice formula psicologica, che è un po' anche il mistero del successo, che è il mistero delle grandi personalità. Questo DNA ha informato, caratterizzato la Ferrari e lo sta ancora caratterizzando, anche se con la guida di Montezemolo, diciamo, sono stati fatti dei passaggi, dei salti evolutivi notevoli proprio per reggere la competizione contemporanea. Ecco, è possibile pensare a un modello Ferrari anche per non tanto la piccola ma la media impresa italiana? Questo è proprio in fondo il suggerimento che spero il libro possa dare, no? Perché la capacità progettuale di cui parlavo prima è oggi una qualità richiesta dal mercato ma anche dalle banche, cioè oggi le banche per poter finanziare la piccola e media impresa esigono non solo una sicurezza patrimoniale, garanzie tradizionali, diciamo, ma anche la capacità di disegnare il bilancio del futuro, non solo quello del presente o del passato, non bastano i successi trascorsi. E qui noi siamo un po' carenti, quindi diciamo la Ferrari è un esempio di come il Made in Italy può portare i valori italiani, i valori imprenditoriali italiani anche al di fuori del nostro paese, però occorre sviluppare questa grande capacità di disegnare il futuro e quindi di fare progetti, ma progetti diciamo pertinenti, quindi innovazione, creatività, ma anche rigore, logica, organizzazione. E quindi su questi aspetti credo che si possa crescere tantissimo. Speriamo che sia una crescita possibile, una crescita che possa sfruttare le opportunità di un mondo che sicuramente è un mondo in cambiamento, ma in cui appunto l'Italia ha saputo dimostrare in molti settori, la Ferrari innanzitutto, ma anche in altri settori come la moda, il design, di poter competere a livello proprio di qualità e di efficacia della propria presenza. Grazie a Roberto Provana, abbiamo parlato del libro Come una Ferrari, impari i segreti di un mito per vincere nel lavoro e nella vita, edito da Anteprima, sono 210 pagine per 16 euro. Prima avevamo parlato del numero della rivista Mondo Cinese, la rivista di studi sulla Cina contemporanea della Fondazione Italia Cina. Grazie a quanti ci hanno seguito, l'appuntamento è per sabato prossimo.